Buonasera, siamo ritornati, ti viene da ridere con buonasera. Buonasera. Buonasera, facciamo un po' a Raimondo Vianello, buonasera. Ricordiamo anche Raimondo Vianello, un solo che personaggio poi alla fine se lo rivendica importante. Mediaset. No, beh, con Tognazzi ha fatto delle cose ottime, il problema è che viene rivendicato il Vianello di Mediaset, insomma. Il Vianello di Mediaset è il Vianello borghese, rappresentante di quella media borghesia. E invece noi vogliamo ricordare quello che fu censurato dalla Rai insieme a Tognazzi, perché è troppo iconoclasta. È vero. Parliamo però del primo Vianello 50-60. Sì, infatti. Primi non anni 60. Quello, anche quello degli anni 70 era abbastanza delirante, però quello degli anni 80 era proprio Mediaset, figlio insomma. Di Mediaset. Comunque un saluto anche a Raimondo Vianello. Tra parentesi ho scoperto una cosa non proprio simpatica su Tognazzi. Facciamo una cosa, io dovrei salutare un po', è morto anche Alquati. Alquati, quello rossa, quello lo ricordo. Vabbè, non speriamo che qualcuno fuori di qualcosa su Alquati, su Romano Alquati, dice accostarlo poi a Vianello un po' così, un no, po' forzato, ma, però. Diciamo che muore una dei personaggi della sinistra critica, della sinistra antagonista rivoluzionaria più importante per quanto riguarda la ricerca, anzi la corricerca inventata da lui, uno dei teorici e anche militanti, perché no, della sinistra estera parlamentare. È stato anche da poco a Bologna qualche tempo fa, più intelligente, più acuti, insomma, insieme a vari Antonio Negri e insomma Scalzone e altri. Antonio perché cosa? Antonio? Perché se dici quell'altra parola certo, è chiaro. Chi è Antonio Negri? Chissà. Vabbè, se ne potremmo citare altri. Una Primo Moroni, infatti, anche Primo Moroni che ci ha abbandonato. Vabbè, dai, perché sennò poi escono troppi nomi. Troppe cose. Andatevi a cercare qualcosa su Romano Alquati, sulla corricerca. Infatti, che comunque è stato assolutamente molto importante ed è giusto, insomma, che lo ricordiamo, perché in ogni caso è stato un punto di riferimento per tutta la nostra area di riferimento, non diciamo altro. Sì, comunque, ma anche per pensiero critico generale. Ecco, così la mettiamo anche più sull'universale. Va bene, sull'universalistico, va bene. Ma non perché non voglia essere di parte, perché è utile anche per il pensiero critico. Ma certo, sono d'accordo anch'io. Comunque, appunto, dopo questo doveroso omaggio, siamo rientrati come 451 frammenti sonori, se no dicono ma che cacchio sono questi? Vabbè. Dopo il GR di Radio Popolare Network abbiamo fatto la prima parte di questa puntata dedicata ad Afrofuturismo 2, declinata sulla techno elettrofunk, una continuazione insomma del percorso tra virgolette che abbiamo intrapreso nella prima puntata dedicata proprio a Afrofuturismo, che invece era strutturata dal jazz cosmico al jazz avanguardia, dalle origini al futuro. Stasera il nostro percorso appunto affronta una tematica più strettamente connessa appunto a questo trittico elettrotecno funk, in questo contesto la prima parte si è sviluppata attraverso un discorso prettamente storico, perché in realtà il percorso era dagli 80 al futuro, con grande George Clinton da Computer Games 82, Herbie Hancock South System 1984, Africa Bambaataa Planet Rock Mix 1982, Model 500 Carl Craig e Drexia, tutti praticamente intorno al 1997, tranne Model 500 che è del 93. No, è la ristampa, è in realtà un pezzo molto antico, la primissima techno. E dunque 88-89. Sì, anche sì, 87. Comunque, insomma, un anello di congiunzione tra gli anni 80 e gli anni 90. Abbiamo fatto questo discorso, soprattutto dedicato a questo trittico, la techno di Detroit. E ora abbiamo riaperto in maniera un po' atipica, perché diciamo che questo progetto è, diciamo, l'unico progetto che esce un po' da questo filo sonoro che abbiamo intrapreso dall'elettro, ma c'è un motivo, ecco, diciamo che la parte più funk di questo trittico tecno-elettro-funk, ma è anche un omaggio a un panorama musicale che è stato denominato dallo stesso autore Steve Coleman come M-Bass, che era appunto una ricerca musicale pluriritmica connessa ovviamente al linguaggio jazz, linguaggio funk, ma riportata anche in una dialettica con l'hip hop e con le musiche che attraversavano gli anni 80-90 per quanto riguarda la musica afroamericana. Avevamo pensato tempo fa ad esempio di dedicare una puntata all'end base, ma oggettivamente i progetti più fecondi sono stati quelli connessi a Steve Coleman. Gli satelliti non sono riusciti mai ad esprimere dei livelli di musica sperimentale o di ricerca, o comunque dei risultati importanti dal punto di vista musicale, e dunque abbiamo deciso di declinare questo progetto, e però ci sembrava giusto dare un richiamo e dare un tributo comunque a un disco meraviglioso, molto ben costruito, da Steve Coleman e Five Elements, The Opening of the Way and the Genesis, ed è un doppio CD uscito nel 1997, dove viene espressa molto bene anche tutta la battaglia della popolazione nera, perché appunto è l'apertura della via e c'è tutto il discorso connesso alla deportazione della popolazione africana negli Stati Uniti, e dunque un discorso molto connesso al fenomeno afrofuturista che abbiamo cercato di esplicare in maniera abbastanza ampia nella prima parte della puntata, ma ovviamente mai esaustiva, di tutto il percorso connesso, e questo termine coniato da Davy nel 1994 con il termine appunto afrofuturismo. Da Steve Coleman e Five Elements invece rientriamo nel nostro percorso principale, abbiamo fatto una piccola deviazione, diciamo, con un altro che ci può anche stare, cosmica. Insomma, una piccola la stradina che poi è rientrata con un altro personaggio sicuramente eclettico. Sì, parliamo di Dr. Octagon, in realtà Cool Kate, che personaggio che per molti versi si potrebbe anche associare a Steve Coleman, perlomeno negli anni 80, alla fine degli anni 80 sia Steve Coleman con la sua M-Bass cercava di rielaborare un discorso sia, fateci passare il termine, fusion, però di una fusion appunto che potenzialmente recuperava il jazz rock con il suono della strada, che invece appunto aveva perso la fusion diventando una musica sostanzialmente patinata da salotto. Invece appunto l'operazione di Steve Coleman è proprio quella di farla ritornare nella strada, di farla ritornare quindi una sorta di esperimento dentro anche quella natura hip hop che alla fine degli anni 80 portava gente come Cool Kate a lavorare proprio su una commistione anch'esso come Steve Coleman tra jazz, però in questo caso molto astrattizzato più che anche quello di Coleman, e chiaramente un suono stradaiolo con Ultra Magnetic MC, quindi due strade che correvano in parallelo ma sicuramente insomma avevano una natura molto similare. Fu anche molto dialettica questa faccenda, tant'è che poi negli anni 90 Cool Kate si inventò Dr. Octagon, che dopo la meravigliosa esperienza Ultra Magnetic MC ribadiva una sorta di pop futurista, di pop anche con venature quasi folli. Tra l'altro Cool Kate ha avuto anche problemi di questo tipo, problemi psichiatrici non da poco, ma uno dei casi che, come potremmo definire, anche senza speculare su, perché non va mai bene, come quello di Barrett, cioè una follia comunque decisamente creativa. Tant'è che appunto questo disco del 97, un capolavoro dell'hip hop più avanzato, volendo potremmo anche dire il pop d'avanguardia, anche se è un termine insomma piuttosto desueto, cioè mettere insieme insomma avanguardia e hip hop, però per certi versi si può anche fare con Dr. Octagon Ecologist, dove appunto la follia e questa spinta futurista diventano una sorta di astrazione tout court per una musica che si ciba anche di grandi collaborazioni, non solo con DJ Shadow e Dan the Automator, due grandi del trip hop anch'esso più visionario, ma anche gente assolutamente fondamentale per tutto l'hip hop degli anni poi a seguire, come Company Flow e come Jurassic 5 ad esempio, quindi anche quella commistione con il breakbeat di Scuola Ninja Tune, molte cose dentro la pentola appunto in maniera quasi folle, schizofrenica. D'altronde questo è un po' la particolarità di questo gioiello Dr. Octagon, che andiamo pure ad ascoltare, guarda caso, non solo parole ma anche ascolto. Infatti. Some waves make you get live. You are the patient and I, your black doctor. Medical bill, insurance, cast in the ceiling. The oxalin fingerprints here ever since. I got my white suit pressed out the cleaners. X-ray shades with hard shoes and some razor blades. Who's the brother that's sick and need the operation? Bullets removed from your head, Grand Central Station. I got the cut off your ear first behind your neck. Rip out your stomach and open rectum to dissect. Shine the light inside, roaches crawling in your throat. I don't have tools, my hammer's gone, my drill is broke. I'm the doctor, you wait on the waiting list. Patients been here since this morning, I dismiss. I'm the doctor, you wait on the waiting list. Patients been here since this morning, I dismiss. Watching people vomit green, my potent, my lizard pills. My office in Burbank, I hide the bodies in Beverly Hills. Seeking Kimballs and bits, a girl with small tits. Talking to herself, her dog, and having rabbit fits. Green fly soup is on the way from the kitchen troop. Looking at TV tuberculosis on the window post. 10 dead dogs, a brown fox, and a comatose. With no rats, I put more needles in their kneecaps. Some primitive screws in mine, yes, and perhaps a little sprig of Clorox in their vocal box. Some Pepto-Bismol, Pepsi-Cola, pack of Pop Rocks. Mixing all together with bugs to change the weather. You be coughing blue with eyes like Mr. Magoo. Straight up cartoon, you're bound to fall out real soon. I'm the doctor, you wait on the waiting list. Patient's been here since this morning, I dismiss. I'm the doctor, you wait on the waiting list. Patient's been here since this morning, I dismiss. As you come in the bright, you ride the orange ambulance. Looking windows of hell, see the mental patients dance. Doing six and seven steps, latest jails dance. Upside downside, the war flying through the hall. Mr. V's of yellow bees and files sting your face. You out there with bumps caught up with an acne case. Plastic surgery, your lawyer now refer to me. Giving you sketches, exquisite pictures of the ill man. What's the matter? Are you happy? Now you ill man. Standing back, you choose a ticket. My spiritual laws of vitamins to turn your face wicked. You invited to ride the glide to your homicide. I'm the doctor, you wait on the waiting list. Patients been here since this morning, I dismiss. I'm the doctor, you wait on the waiting list. Patients been here since this morning, I dismiss. Dr. Octagon, paramedic, focus on the east for priests. My anesthetics prescribe a certain fertilizer. Homegrown, computer-wise on the microphone. Utilizing tracks inverted by a mimical. High typical for SpaceX intercourse. You get lost and memorized to the Enterprise. Scotty the captain, Mr. Spock keeps rapping. 4212, the ship moves at warp speed. Dynamic 7, navigation on the compass. Moving in crystals, operating light speed. I see the plants, they're growing. Cyber analog through virtual reality. Different colors of earth, rocks, and variety. Medical equal with helmets on the space people. Galactica 8, the verdict can't demonstrate. You be confused and disobeying planet rules. Biochemistry with stars for publicity. Megasonic base with data chips in your face. Nuclear lindrums that bang hard on dark tracks. Reacting reverb, conscious spots on your nerve. I'll take a break like James Brown to the bridge. Feedback, magnetic orders, x-ray. You see skeletons fly north on the next day. We can pass this cover with the oxalate gases. Return. Here's George Jetson. Back with intriguing positive minerals. You enter the sensor, search your rating at random. With no condom, no rubbers would reach the testicles and affect them. By animal means, I'm in your spectrum. As I walk through the garden of orange tomatoes, I see blue flowers. You are now about to witness. Terms navigate your intelligence. Terms navigate your intelligence. Terms navigate your intelligence. Ah! siamo rientrati in diretta dopo aver mixato questo splendido lavoro di, del personaggio piuttosto assurdo ma anche piuttosto fuori le righe di Dottor Octagon, con un disco splendido, Dottor Octagon Ecologist 1997, l'uscita di questo album. L'abbiamo mixato con un altro personaggio estremamente importante sulla scena degli anni 90, la musica afroamericana, DJ Spooky, da Synthetic Fury 1998. DJ Spooky, che oltretutto è uno degli autori musicisti tra i più partecipi anche al progetto della corrente afrofuturista, oltre che un personaggio che ad esempio ha anche dedicato un vero e proprio spettacolo tributo all'eredità di Fela Kuti, l'afrobeat di Fela Kuti, che è uno degli elementi importantissimi della visione afrocentrista e connesse anche a tutto il concetto di diaspora africana a cui si rifà tutto il movimento afrofuturista. Dunque sicuramente un personaggio che è strettamente dentro il discorso di stasera dell'afrofuturismo, un DJ Spooky che è anche dentro gli anni 90 pieno, riuscendo bene a riportare l'eredità della musica nera, soprattutto anche dagli anni 60-70, ma anche influenzata da tutta la musica contemporanea, in particolar modo da John Cage, l'importanza che ha avuto Sun Ra anche nello sviluppo musicale di DJ Spooky, ma anche l'importanza di tutta la musica anni 80 a cui fa riferimento lo stesso DJ Spooky, quella che poi abbiamo attraversato in parte, ovviamente in maniera parziale, perché i materiali sono veramente innumerevoli, nella prima parte della trasmissione. Un DJ Spooky in questo brano porta anche una visione sonora dabbata estremamente ricca, estremamente interessante dal punto di vista ritmo, con un'introduzione invece che quasi connessa a un certo concretismo elettronico che spesso Spooky ha attraversato e a cui si è sempre rivolto con grande, grandissima attenzione. Personaggio veramente poliedrico dal punto di vista musicale, ancora adesso riesce a stupire i critici, gli appassionati, per la sua grande versatilità e la capacità sempre di attraversare e farsi attraversare da più suoni, da più sonorità e da più linguaggi. In questo sicuramente è uno degli elementi afroamericani anche più interessato a un continuo incrocio con le musiche anche bianche, in una maniera assolutamente dialettica e assolutamente futurista dal punto di vista musicale. Enormi le collaborazioni con grandi musicisti e grandi compositori, da William Parker a Matthew Shipp, con cui spesso abbiamo dialogato, no, radiofonicamente. Ma ci sarebbe anche stato abbastanza bene, sicuramente, più elettronici. Sicuramente. Comunque un personaggio di cui veramente possiamo scrivere ancora, sicuramente scriveremo ancora molte pagine di musica, perché è ancora molto giovane. Da DJ Spooky andiamo invece verso un altro bel personaggetto. Sì, un altro territorio. E tra l'altro prima citavi Fela Kuti, con Spooky e il dub si va a prendere anche un altro grande personaggio del passato, che è un riferimento della cultura afrofuturista, ovvero Scratch Lee Perry, proprio per il dub, il creatore appunto di questa navicella spaziale, che poi era molto povera in realtà, attraverso l'uso inconsueto e avanguardistico per molti aspetti, però molto anche pezzente, perché è quello di quello si tratta. Erano veramente studi spartanissimi dove lavorava Lee Perry, giamaicano, e dove il reggae diventa dub appunto con l'utilizzo assolutamente fantascientifico di Lee Perry, delle sue musiche, nel senso musiche reggae della sua terra. E se Spooky prendeva di riferimento Fela Kuti e Lee Perry, con Derrick Carter si prende una certa visione dell'house, che è quella di Chicago, più vicina sicuramente a quel melting pot culturale, sonoro, politico anche, che fu di tutta o buona parte ACM, Art Ensemble Chicago, Anthony Braxton, eccetera eccetera, non tanto come suono, perché insomma siamo lontani veramente anni luce in quel senso, ma come attitudine liberata per attraversare musiche veramente che hanno umori di tantissimi tipi. E l'House di Chicago, la prima House di Chicago, sicuramente si nutre di quello che in città successe appunto negli anni 70 con quella dimensione appunto post free, e i primissimi tracks, quindi le primissime tracks di Future, di Virgo, di Marshall Jefferson, diedero vita a una linea house sperimentale ben ad esempio delineata, se volete insomma un consiglio anche musicale, così a bruciapelo dentro Acid di Soul Jazz, dove veramente lì potete trovare l'house di Chicago declinata in salsa più sperimentale. Splendido lavoro, Soul Jazz, sì. Me lo ricordo ancora perfettamente, anche come se un po' che saldo, sì, sì, infatti qualche anno fa uscì veramente una compilation che spiega bene come Chicago House, quella Chicago House prese molto appunto dai vecchi sperimentatori. E Kashmir, Felix Dauskat sono di seconda generazione, una terza generazione oramai esigua per quanto se ne possa dire. Io veramente non posso non pensare che la house music sia morta perlomeno una quindicina d'anni fa, scusatemi se dico una cosa che magari molti prenderanno insomma male oppure diranno ma non è così. Vabbè, insomma, fate un po' come credete voi, se pensate che sia diversamente spiegatemi poi anche perché, forse perché la chiamano Deep di nuovo quando la Deep era ben altra cosa, Chicago. Vabbè, la Deep tra l'altro interessa anche Derek Carter, come interessò appunto certo Felix Dauskat, certo Kashmir, e certo appunto la seconda e terza generazione di quella grande scuola appunto che veniva fuori dalla Chicago House, dalla Trax, della International Gigolo. Square Dancing in Roundhouse 2002, ultimi sprazzi di un'house visionaria, però un figlio appunto di quelle grandi vicissitudini musicali che piantano i piedi negli anni 80. è splendido questo lavoro, veramente un viaggio quasi in una dimensione intergalattica, forse quella appunto immaginata dagli afrofuturisti che nei loro testi, nei loro romanzi di fantascienza creavano appunto queste astronavi verso dei mondi immaginifici e quasi in una sorta di ulteriore viaggio verso la libertà, verso mondi sconosciuti per affrancarsi ovviamente dalla schiavitù, dal controllo sociale, dalle nuove forme di controllo, di pseudo-assimilazione della società dei bianchi, come è accaduto negli anni 90, dove appunto gli afrofuturisti ripresero in mano il bandolo della matassa che si era un po' perso nei primi 90 dopo le battaglie degli anni 70 e anche il recupero dell'identità in una nuova forma tecnologica negli anni 80. E l'afrofuturismo nasce appunto nella ripresa, nella volontà di riprendere una coscienza della loro subordinazione, del loro asservimento a una società costruita sulla distruzione, sulla schiavitù e sulla sopraffazione dei diritti fondamentali della popolazione afroamericana. In questo sicuramente, almeno nell'immagine sonora, nell'immagine che uno si può profilare dentro di sé attraverso l'ascolto di questo splendido lavoro di Derrick Carter, che oltretutto richiama in maniera piuttosto netta sia dall'inizio con l'uso di questi accordi Rhodes, con chiari rimandi alle dimensioni fantascientifiche anni 70, in questo caso soprattutto di Memoria Enochiana, e anche qua sotto, come lo sentiamo in sottofondo, con questi suoni estremamente appunto fantascientifici o forse legati a qualche strumento di un'astronave, ci rimanda appunto a tutto il discorso che abbiamo fatto sull'afrofuturismo. E invece dal grande Carter arriviamo a una formazione indiscutibilmente importante sulla scena anch'essa degli anni zero. Iniziamo dunque a affrontare gli anni zero attraverso Carter e quest'altra formazione, però in un'ottica sicuramente differente, sì, rispetto all'House di Carter. Sì, se con l'House di Carter si chiude per lo meno un ciclo legato appunto all'House come prima e seconda generazione, poi appunto lanciamo la provocazione prima che forse è morta lì la faccenda, però vabbè, lì il discorso è aperto. La faccenda di Derrick Carter comunque sancisce una pietra miliare in quel suono deep house con elementi appunto utopici e visionari. E invece la faccenda con Prefuse 73 si apre veramente in maniera anche inaspettata, perché negli anni zero sembrava che l'hip hop veramente non dovesse più andare da nessuna parte. In realtà Company Flow, ad esempio, prima citati, ebbero un'idea diciamo straordinaria come quella di Prefuse 73. Uno in America, appunto Company Flow, e invece in Inghilterra Prefuse 73, quella di rendere astratto il suono hip hop, non appunto con quella visione che abbiamo sentito anche prima legata ad esempio a Dr. Octagon, ovvero o per certi aspetti anche a molto spooky anni 90, cioè quel suono intrippante, quindi da viaggio dentro l'hip hop e quindi trip hop, ma un suono veramente astrattizzato, quindi una sorta di viaggio dentro quello che rinuce, dentro certe sperimentazioni hip hop. Prefuse 73 nell'Inghilterra della Warp, che all'epoca stava anche cercando di cambiare un po' regista rispetto ai suoni degli anni 90, che l'avevano fatto anche grande, cercò insomma e trovò in Prefuse 73 questa possibilità, una sorta di incrocio impossibile tra ritmi di ambient astrattizzata come quella di Boards of Canada, un hip hop stradaiolo che passa attraverso una sorta di fuga cosmica e appunto un calderone di generi che però vengono tutti scarnificati per arrivare a una sorta appunto di metafisica del suono hip hop, appunto un'astratta concezione e un'astratta anche materia sonora che andiamo a prendere appunto da quello storico progetto che fu Prefuse 73 in questione Extinguish Outtake, dove si divertono appunto i nostri Prefuse 73, o più propriamente Scott Herren, che era proprio il personaggio nero inglese che curava la faccenda in maniera particolare, si diverte appunto a andare a trovare una sorta di ulteriore strategizzazione rispetto anche al suo disco precedente. Judgment and good taste. There are times when it is totally inappropriate. Listen to this exchange overheard at a wedding reception. Fuck you, if you think that's bold. I couldn't feel your shit if my hands were stuck inside of your asshole. Now that's an example of how to use humor to get your point across in an agreeable way. sides. Grin upon my last smile. Spit concrete vibes. Spit vines on the shy. Force besides. Grin upon my last smile. Spit concrete vibes. Spit vines on the shy. Force besides. Grin upon my last smile. Spit concrete vibes. Spit vines on the shy. Force besides. Grin upon my last smile. Spit concrete vibes. Suppose it's a mess you believe to be real. Listen to Hendrix play backwards on real to real. This world lost its feel when art lost its grasp. Should've paid attention in class. Get fed or tipped up, disease is still a bastard. Eyes full it all, never seen the swift nil. Built on the ashes you burnt, place the urns along with the lessons I learned. I'm out of paradox, I am where you were. Before you was my victim, breathe Clorox while I rock. Social unconscious, tight show the chisel. Force besides, grin upon my last smile. Spit concrete vibes, spit bodies on his child. Force besides, grin upon my last smile. Spit concrete vibes, spit bodies on his child. Force besides, grin upon my last smile. Spit concrete vibes, spit bodies on his child. Force besides, grin upon my last smile. Spit concrete vibes. Cortex, search for more sex and violence. Who's met with ill silence? Childhood idols, the hard like third world tyrants. Reviving, setting core, movies you adore. Lost in urban lore, cleanse perception's doors. Respect that film noir existence. I had to exit poor. Force besides, grin upon my last smile. Spit concrete vibes, spit bodies on his child. Force besides, grin upon my last smile. Spit concrete vibes, spit bodies on his child. Force besides, grin upon my last smile. Spit concrete vibes, spit bodies on his child. Force besides, grin upon my last smile. Spit concrete vibes, concrete vibes. To bless minus 55 and thousands, two screen for fiction as they laughing. 33rd degree, new continents we mapping. Ask what happened as I bleed my vocal orifice. We breathe too much nonsense. Saber, slow fader, plus the fader on the mixer's busted, not encrusted in dusty breaks. I make hymnals. When Jay can you tell him about your Fourth Amendment or pretend you're deaf? I could write a rhyme with nothing rhymes. It's the man of honor, dodging anaconda with a bomber in a Honda, rolling marijuana on the Verizana, ready to get dirty like a farmer. Merge with Time Warner, a daytime drama series. Windy with flurries that bury it in a hurry, then carry it through my study. It's bloody and kinda ugly, like finding your buddy. And nobody believes the story of how his head got stretched. It looks like silly putty. Don't fuck with money or muddy. Go find a honey, it's sunny. Do whatever you want it, but get away from it. Vowel and verb, tongue, hockey, honey, duster on hand, trigger, grease, gun, grammar, enigmatical, my word is flame. The rock, build the rag, Andy, rag, Andy, lay back like horizontal, three funnel, black cylinder pistons. Steady pumping, loving your love, love, anomaly, me, Robski, big dick mentality, never play well with others. But how I freaking greet beats, you embrace like brass knuckles. Decrepit out your eyes like an alphabet. It hurts like a rented car. Cracking up chumps like chap lips. I come on the tracks like, come on the tracks. Tongue leather, tell him halfway to heaven, go to hell. My speech greets peeps with a three-piece sleek in a sweet knee deep. Shooting porns all week while you torn up tweaked in a creek 4 feet with a morgue beak. Bald head, no teeth. Sloppily spat. I never heard you cause you're probably whack. Wobbly tracks can bubble through the circular rotation of plastic. My horoscope forecasted a drastic change and then the crash hit. Must be musty, words all greased like Tyrese. Rough like a massage from a misogynist. My patterns are lobbying against slobs, verbose, destroying the things you love most. Under a close inspection with a gross eye for detail. Under a scope I scope with hopes of change. But things are the same, same, same, same. Gummy rats push, I pull in contrast. You look fly from afar, but far from fly. Washed up orangutan, table mannered and civilized cats. Wanna dangle the carrot, but don't deliver. But need somebody to love you, invest in a mirror. Came off cunts as lemon and all bitter. No guts and all glitter. Drowning in the noise of the spectacle. Got me chewing with my mouth open to mash tears like Alan Alda. The decks, get the people to flex next. Open up their chest, vex wide like Texas. I don't think you wanna hex yet, mom. Stress vex with a minister at your rest. Over the desk, try to bless where you dress. Sleep and kneel. See, yo, don't block my wheels. Cause if you got my back, I'll be yours. Human, human, human, human, shield, shield, shield, shield. Human, human, human, human, shield, shield, shield, shield. Human, human, human, human, shield, shield, shield, shield. Human, human, human, human, shield, shield, shield, shield. Minuti di pop assolutamente stellare, veramente tra le cose migliori uscite negli anni zero, e l'hip hop veramente si trasforma in un'astronave fantastica dalle strade al cosmo, potremmo dire, sia con Profuse 73 Errata Corrige. Corrige, cosa lo dico, pure in inglese, vabbè, qua oramai c'è proprio entrato nel sangue la cultura anglosassone. Sì. È errata perché Profuse in realtà nel suo personaggio principale è di Miami, seppur non cade il discorso riguardo all'Inghilterra, perché la filiazione con la Warp lo portò poi a collaborare con vari inglesi, tra cui poi anche elaborare un discorso che dalla Warp si espandeva anche al mondo del rock sui generis tipo Blonde Red Dead, quindi addirittura lavorare in ambito anglo-americano e giapponese addirittura. Un globetrotter soprattutto musicale, mixato poi con un pezzo straordinario come quello di Dalek Crew, invece newyorkese, qua senza dubbio lo diciamo, From Filthy Tongue and Of Tongue Gods and Griot, qua vabbè i titoli bene che vada durano una mezz'oretta, anche questo insomma è una caratteristica stasera, sì, perché prendevano molto da quei delle titolazioni assurde sia di Sarra che di George Clinton durante il periodo funkadelico, appunto con i suoi funkadelic Parliament, dove i titoli non significavano niente se non fantasia, esplosione appunto di un mondo assolutamente fantastico, elaborato appunto dai grandi afro futuristi che questa sera stanno attraversando 451 frammenti sonori. Con D'Alex si va dentro una distopia cosmica, un'utopia appunto portata al negativo, una fantascienza sì, ma dalle timbriche veramente, dalle tinte anche decisamente oscure, che invece diventano folli e pazzesche in Antipop Consortium, che abbiamo ancora in sottofondo. Eh sì, Antipop Consortium è un progetto che spesso ha attraversato 451 negli anni zero, anche se è una formazione che poi nasce nel 97 a New York, una formazione che poi ha avuto l'importanza sicuramente fondante per riuscire a costruire questo hip hop estremamente aperto alla sperimentazione, ricco di dimensioni elettroniche anche estreme, con rumori inseriti e ritmicità piuttosto complesse. E il disco da cui abbiamo tratto un brano splendido di chiusura è Aritmia, il disco sicuramente che ha consacrato questa formazione sul piano internazionale musicale, uscito chiaramente un'altra formazione che è stata pubblicata dalla Warp come la formazione del Prefuse 73, infatti non a caso l'abbiamo unita insieme a Dalek, una Warp che ha avuto anche l'intelligenza negli anni zero di rimettersi in gioco e di aprirsi anche all'hip hop, un hip hop sicuramente fuori dai canoni prefissati, e un hip hop che poi ha creato sicuramente delle ottime cose che la Warp ha seguito direttamente. Formazione americana che, se la Warp, ricordiamo, è un'etichetta inglese di Sheffield, addirittura di Sheffield, partita dal dopo Cabaret Voltaire, Richard Kirk tra i primi fondatori. E adesso invece arriviamo a una formazione che si muove su universi paralleli potremmo dire, differente la dimensione musicale, ma lo spirito afrofuturista direi che li prende appieno. Entriamo di nuovo per certi versi nella techno, sì. L'avevamo affrontato quella squisitamente fondamentale di Detroit degli anni 80, ora stiamo entrando e anche dei primi 90, stiamo entrando invece nella techno degli Underground Resistance, anche loro formati a Detroit nei primi anni 90, ma che hanno portato avanti un discorso anche fortemente politico connesso alla loro musica. D'altronde Max aveva ben spiegato anche la dinamica, la crescita della techno in una Detroit in piena crisi, con lo smantellamento delle industrie fondanti che davano cosiddetto lavoro, pane e lavoro, le macchine di Detroit a moltissime persone, lo sconquasso della chiusura, della ristrutturazione industriale hanno portato poi a tutta una dimensione che attraverso la techno si è espressa in maniera assolutamente compiuta, e anche attraverso gli Underground Resistance, che appunto nel disco che stasera andiamo a pescare fanno una rivisitazione di un progetto che abbiamo ultimamente anche inserito all'interno di 451, la Nublo Orchestra, Sketches of New York City, è un remix. Mi fa il cenno, e quando è stata? È stato l'altro afrofuturismo. L'altro afrofuturismo, bravissimo. E poi oltretutto l'abbiamo anche ritrovata, sì, la Nublo Orchestra nel Jazz No Jazz. Bravo. Ah, grazie, adesso merito una medaglia, sono a posto. Un ottimo remix di un brano che è, insomma, spettacolare, meraviglioso, come tutto l'album del grande Lawrence Butch Morris insieme appunto alla Nublo Orchestra. A questo punto ci risentiamo la techno afrofuturista riproposta degli Underground Resistance nell'anno 2007, dopo ben 17 anni dalla loro formazione, con la stessa grande sapienza, la grande capacità musicale sonora anche di reinterpretare, di remixare un brano che, se sentite l'originale, è piuttosto differente. Thank you. Afrofuturismo dagli anni 80, dagli 80 quindi al futuro. Beh, se abbiamo iniziato con Giorgio Clinton e con il suo Atomic Dog targato 81, poi in realtà l'album è dell'82, Computer Games, fondamentale per l'afrofuturismo, finiamo con Benga, quindi un passato che ritorna, il suono elettro, il funky e un'Africa però sintetizzata nel vero senso della parola, perché utilizza strumenti sintetici per dare la sua idea di techno electro funk o Benga. E questo sì, personaggio senza dubbio. Io ho una gran paura stasera dopo aver sbagliato con Prefuse 73 che viene da Miami. Beh, ma non è molto grave. Non dai. È grave, se poi me lo dici tu io sono molto guarda. E con Benga parliamo di Bristol, di quello che fu la città del trip hop, ma lui si muove in maniera molto adeguata anche per un futuro prossimo già venturo, dentro quel suono appunto tra elettro, funk e visioni future del dubstep, che comunque è sempre decisamente inquieto, non va a cercare la maniera come magari qualcuno ha anche fatto, diciamo che dentro il dancehall, se ancora il dubstep si può considerare tale, è sicuramente stato il suono migliore degli anni zero. E anche qua facciamo una piccola polemichetta con i minimal che sono in ascolto. La super minimal, veramente il super minimo, più bassi di così non si può andare. Invece con Benga troviamo un mondo che sicuramente è spostato in prospettive future e futuriste, e così ci piaceva appunto concludere questo dagli anni 80 afrofuturismo fino ai giorni che verranno, e Benga un po' anche per la giovanissima età e per questo disco eccezionale che ha fatto di Ari Afro Warriors, già il titolo un mezzo capolavoro, il disco veramente un piccolo gioiellino che sicuramente insomma porterà lontano l'afrofuturismo, non soltanto di Benga ma proprio del concetto e della fantascienza utopica o distopica insomma della popolazione sonora nera e non solo, visto che poi le combinazioni sono varie ed eventuali, come abbiamo sentito questa sera, sia in termini etnici sia in termini appunto di fantasie musicali sonore. Bene, direi che oltretutto questo titolo è assolutamente splendido per chiudere la trasmissione, appunto di era di un combattente, di un lottatore africano, insomma questo direi che è proprio splendido come chiusura. Speriamo effettivamente che diventino sempre di più i diari di questi combattenti, perché ce n'è bisogno, e non solo afro in generale proprio. Però vabbè, oggi parliamo di afrofuturismo, anche italo combattente magari questo, ma mi sembra che qua siamo italo piagnente, italo coglione, salici piangenti o salice piangente o salice piangente, va bene. Ok, direi che abbiamo finito la nostra nottata con voi ascoltatori di Radio Città del Capo. Quanti sarete, quanti non sarete? Bene, rimandiamo anche al blog, così facciamo questa doppia quanti roba. Quanti siamo anche noi, in realtà siamo anche noi delle moltitudini. Sì, sì, nel senso che siamo schizofrenici tutti e due, sì, in effetti è vero. Beh, se poi sapeste che cosa succede quando i microfoni sono dietro le spenti, veramente direste fuori, questi sono veramente pazzi. Ma probabilmente è vero, meno male che c'è ancora un po' di pazzia, perché se non ci fosse non più, abbastanza, forse quella non maestro. È mai abbastanza. Però va bene, dai. Per adesso diamoci questo momento di... Con questo va bene. Questo va bene, insomma, diamoci un momento di afrofuturismo, anche noi, anche se siamo poco afro, è un po' futuristi, forse più tu, però va bene. Vabbè, ma anche tu, dai, ti accolgo, come dire. Grazie, nel mondo afrofuturista. Nel missile. Grazie, nel missile futurista. L'astronave. Usiamo questo termine. Missile astronave. Afro un po' dura, perché... non siamo afro, dunque è inutile che ci... Beh, però tanta musica nera attraverso 451. Certo, c'è dentro... Siamo dentro. Un po' vorrei la pelle nera, quello sì, cantare. Ma io mi ricordo, 60, ti raccontai quell'episodio, ma non lo racconto però, me lo raccontai. Sì, quando suonavo tanti anni fa, che venne questo tipo afro che mi fece... I complimenti. No, mi disse, sei molto nero nel modo in cui suono. Ah, questo fu un grande complimento. Poi ricordiamo ad esempio le sarte arrazze. Però da quel momento non ho suonato più, però... quello per altre ragioni. Ma le sarte arrazze, ad esempio, gruppo bianchissimo. Bianchissimo che è iper nero. Iper nero, infatti, e si pitturavano di nero. Ma ti do anche questo piccolo aneddoto. C'avevo avuto un buco memonico, avevo pensato proprio alle sarte arrazze. Poi ho detto, ma non ne sono bianchi, infatti. No, infatti, si pitturavano di nero per dare quella ancora più quella negritudine non soltanto sonora ma anche estetica. E allora ci pittureremo anche noi di nero. Eh sì, va bene, facciamo anche questo. Faremo questo. Ci lanceremo nell'afrofuturismo. Bravo. Comunque, ovviamente, buonanotte, ricordiamo se dove andare, va bene. No, ricordiamo che la prossima domenica ci saremo ovviamente ancora con 451 frammenti sonori, anche se praticamente è il giorno 25 aprile, caro. La liberazione, credo proprio di sì. Sì, e ci liberiamo. Cioè, vabbè, ok. Sì, non ci liberiamo, sì, ma qua già mi viene male cosa faranno il 25 aprile, cosa diranno, cosa scriveranno, cosa ci dovremmo ascoltare. Perché guarda, ormai tra poco non so dove arriviamo. Cioè, ci troviamo. Vabbè, allora torniamo alla battuta. Pensate, ci troviamo i fasci il 25 aprile, secondo me. Che festeggio. Appunto. Ci siamo liberati di qualcos'altro. Ciao, buonanotte.